Per Radio Città Fujiko sono qui con Massimo Maestro, presidente dell'Arci Emilia Romagna, quindi intanto benvenuto e grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi. Volevo chiederti insomma due o tre cose a proposito di Suner, che è il vostro festival che coinvolge moltissimi club di tutta la regione, e volevo partire proprio da qua, quindi un mix di proposte molto differenti tra loro e un coinvolgimento a 360 gradi di tutta la regione. Sì, noi crediamo che il live vada sostenuto soprattutto negli spazi medio piccoli, perché è lì che si fa innovazione, che suonano, che arrivano proposte nuove di qualità, che si devono magari ancora far conoscere, formare, oppure anche situazioni già consolidate, già note, che però non hanno bisogno della grande ribalta. Abbiamo quindi costruito questo circuito di live club affiliati all'Arci e siamo riusciti negli anni, ormai è il sesto anno, siamo riusciti nell'anno ad essere dappertutto, nel senso che andiamo da Piacenza a Rimini, quindi non solo nelle città come Bologna o come Modena, come Reggio, dove la tradizione live è molto presente, ma cerchiamo di essere diffusi nel territorio. Proponiamo due appuntamenti annuali, un mese, il mese di marzo, che è quello che abbiamo presentato in questi giorni, il mese di marzo, e poi un festival vero e proprio che faremo in ottobre. Qual è la caratteristica? La caratteristica è quella di selezionare una decina di proposte fra le produzioni emiliano-romagnole, che significa artisti della zona o che lavorano in zona o che sono residenti in zona, che producono e ai quali noi diamo la possibilità di suonare nei nostri spazi. In più ogni anno costruiamo delle produzioni specifiche, siamo alla terza produzione in questo progetto, la prima con Baronciani, noto fumettista, la seconda che presenteremo proprio in marzo qui a Bologna con Emilio Clementi, e la terza in via di costruzione presenteremo a ottobre con Jonathan Clancy. Hai anticipato in parte una domanda che ti volevo fare, cioè è un progetto a lungo termine questo, no? Perché è la seconda triennalità che presentate, quindi cosa vuol dire dover studiare un progetto che non è ridotto nel tempo ma deve rinnovarsi ogni anno e stare anche al passo con i tempi, diciamo così. Ma allora, noi pensiamo che la difficoltà di fare programmazione in Italia per problemi legati alla burocrazia, ai fondi, sia uno dei più grandi problemi, nel senso che in Europa programmano da qui ai prossimi 2-3 anni, noi a volte non sappiamo cosa succede dopo l'estate, quindi stiamo cercando, e questo non possiamo chiederlo al singolo circolo, il ruolo del regionale e dei nostri provinciali è proprio quello di mettere insieme questi spazi e provare a ragionare non solo su domani ma anche su dopodomani e magari anche un po' oltre. Per questo motivo siamo riusciti a portare dentro situazioni, penso a Piacenza, Rimini, che erano più defilate, perché abbiamo dato a questi spazi la possibilità di entrare piano piano, di crescere e di programmare. Un anno magari partecipi al gruppo e non proponi niente, l'anno dopo fai una cosa piccolina, se funziona la volta dopo cresci. Questa è un po' la nostra idea. L'altra è quella degli spazi. Noi nasciamo alla vecchia, siamo un'associazione di spazi, crediamo che per fare cultura ci sia bisogno di spazi, in particolare in questo caso, come dicevo, medio piccoli, però allo stesso tempo gli spazi hanno bisogno di produzione, hanno bisogno di idee, hanno bisogno di innovazione. La cultura senza spazi non va da nessuna parte, gli spazi senza innovazione si spengono, quindi cerchiamo di tenere insieme questi aspetti. È bellissimo perché mettere insieme 20 spazi, 20 direzioni, 20 idee diverse, ognuno chiaramente c'è molta passione, quindi la sua proposta è la più bella, è bellissimo, faticosissimo, ma ne vale la pena. L'ultima cosa che ti chiedo è: se uno volesse approfondire tutte le varie proposte, dove va a guardare? Beh, noi abbiamo creato tutti gli eventi Facebook e Instagram sotto la pagina ufficiale di Suner, il sito dell'Arci Emilia Romagna, e comunque tendenzialmente le pagine sono più seguite, perché noi siamo la piramide al contrario, sono quelle dei circoli, quindi di andare a vedere magari nel proprio circolo preferito se è dentro, magari se non è dentro andare una sera e dirgli: ma perché anche voi non fate questa attività? Però ripeto, nella pagina web dell'Arci regionale si trova tutto, se no Facebook e Instagram.